Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo del pensiero, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. Il nostro intento è contribuire alla costruzione di una società ispirata ai principi dell'antispecismo, quindi un'idea di uguaglianza tendenzialmente estesa a tutti gli esseri viventi. Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? È la puntata numero 737. E parleremo di animali in guerra, di nuovi risvolti della guerra agli orsi che si combatte unilateralmente in Trentino, di cinema e di nuovi sguardi sul mondo dei cani. La colonna sonora della puntata e la ricetta della settimana sono entrambi a cura di Gabriele Palloni. City of stars, are you shining just for me? City of stars. There's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream that I cannot make true? A Gaza, come documentano ormai da mesi l'eroica stampa locale, quella internazionale, le maggiori organizzazioni non governative impegnate nella tutela dei diritti umani e le stesse Nazioni Unite, si praticano crimini di guerra e contro l'umanità a cielo aperto, nell'inazione generale. Le condizioni di vita della popolazione locale sono terribili, gli aiuti alimentari e sanitari sono centellinati dall'esercito israeliano. La morte è un pericolo incombente e la compagna quotidiana per milioni di persone. In questo apocalittico quadro, che il resto del mondo osserva senza riuscire a intervenire in modo significativo, si consuma anche la tragedia degli animali palestinesi. Mancano l'acqua e il cibo per tutti. Si è parlato a più riprese di persone nei campi profughi ridotte a mangiare cibo per animali e inevitabilmente la carestia colpisce anche asini, cavalli, cani, gatti tutti gli animali che vivono nella striscia di Gaza. Sono circolate nei giorni scorsi immagini commoventi di persone che, nonostante tutto, cercano di sfamare gruppi di gatti affamati, sopravvissuti alle esplosioni e ai crolli dei palazzi, animali spesso nascosti fra le macerie. Osservare simili scene rende ancora più evidente la follia della guerra e anche la crudeltà dell'esercito israeliano nel privare i palestinesi, umani e non umani, dell'essenziale per vivere. La vita animale in questo momento a Gaza è vicinissima alla condizione umana, ma solo perché la privazione estrema rende gli uni e gli altri nuda vita, semplici corpi alle prese coi bisogni essenziali, bere, mangiare, sopravvivere alle esplosioni. Su questo punto, sull'abbandono di questi esseri viventi alla loro sorte, sulle loro vite umiliate appese a un filo, dovremmo riflettere nelle nostre società che si definiscono democratiche, che affermano di essere paladine almeno dei diritti umani, se non di quelli animali, ma che dimostrano di essere disposte ad accantonare tutto, diritti, affermazioni di principio, il senso stesso della nozione di democrazia, quando certe ragioni geopolitiche o semplicemente la legge del più forte lo richiedono. Quel che accade nella striscia di Gaza è una vergogna il cui peso grava in primo luogo sullo Stato di Israele, ma anche, in seconda ma non secondaria battuta, su tutti noi, sui nostri sistemi di governo. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what am I about? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do is fall in love. Mazza Ursi sarebbe favorevole al trasferimento dei due orsi attualmente detenuti nel parco del Casteller, la prigione per orsi nei pressi di Trento, in altre strutture più adeguate, presumibilmente all'estero. Si è parlato in particolare del santuario Alternative Wolf and Bear Park, situato nella Foresta Nera in Germania, uno spazio già noto alla provincia di Trento, perché vi furono trasferiti in passato prima l'orsa Jurka e poi l'orsa DJ3. Nei mesi scorsi la giunta provinciale aveva in realtà ignorato le proposte delle associazioni animaliste di occuparsi del trasferimento degli orsi prigionieri al Casteller, ma ora sembrerebbe esservi stato un ripensamento, che avviene all'indomani dell'approvazione in consiglio della citata legge Ammazza Orsi, un provvedimento che consente di uccidere fino a 8 animali all'anno e che per la sua abnormità ha scatenato la pronta reazione anche legale delle associazioni animaliste, le quali ovviamente hanno invece approvato l'ipotesi del trasferimento dei due prigionieri del Casteller. Accogliamo con grande favore le prime parole di buon senso che provengono dalla giunta Fugatti per il trasferimento degli orsi rinchiusi al Casteller, ha detto per esempio Massimo Vitturi, responsabile del settore animali selvatici della LAV, Lega Antivivisezione, consapevoli che purtroppo non c'è alcuna possibilità di rilasciarli in natura. È da giugno 2023, prosegue Vitturi, che la provincia ha in mano il nostro piano particolareggiato redatto per gestire il trasferimento di JJ4, una delle orse prigioniere, nel rifugio in Romania, che ci ha dato disponibilità ad accoglierla fin dal maggio scorso. L'ipotesi romena si aggiunge dunque a quella tedesca e l'AVA chiede alla provincia di avviare subito le operazioni di trasferimento di JJ4, visto che le autorizzazioni internazionali e le formalità burocratiche sono già state svolte lo scorso anno. Basterebbero quindi pochi giorni di preavviso, dice l'AV, per organizzare mezzi e persone che prenderanno in carico l'orsa al Casteller per trasferire la nuova vita in Romania, con tutte le cure del caso e in massima sicurezza. Lo svuotamento del Casteller, secondo l'associazione, è un passo fondamentale per garantire una vita degna ai due orsi, ma la battaglia per tutti gli altri orsi, aggiunge l'AV, non si ferma. tanto che l'associazione informa di essere già al lavoro per affrontare il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Europea, dove il TAR di Trento ha sollevato una questione di interpretazione della direttiva Habitat proprio in relazione alla decisione di salvare la vita di JJ4. In parallelo l'Hub lavora a un'istanza per rivolgersi alla Commissione Europea, alla quale chiedere un intervento per cancellare la legge Ammazza Ursi, che l'Hub definisce vergognosa. Lo strumento per bloccare tutto sarebbe l'apertura di una nuova procedura di infrazione contro il nostro paese per la violazione appunto della direttiva Habitat. Anche l'EAL, come altre associazioni, annuncia iniziative legali contro la legge a livello europeo. Ma il presidente Gianmarco Prampolini torna anche sull'uccisione dell'orso denominato M90, informando che l'EAL ha depositato un atto di denuncia querela per l'uccisione dell'animale. La relazione ISPRA in nostro possesso, dice Prampolini, dimostra una volta di più come la provincia di Trento, nella figura di Fugatti, proceda in autonomia e senza contraddittorio, con l'avallo di ISPRA. E non è un caso, aggiunge il presidente di Leal, che la decisione di uccidere M90 sia stata presa in rapida successione al decreto di soppressione per evitare ricorsi da parte delle associazioni. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. Emilio Maggio, esperto di cinema, amico dell'antispecismo, nonché autore, con Massimo Filippi del libro Penne e pellicole, edito da Mimesis, sta componendo per noi da qualche tempo un percorso dedicato agli animali da set, proponendo di volta in volta un lemma, un concetto, attorno al quale sviluppa il suo discorso. Oggi tocca la lettera M, come mostri. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking how, everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, loud, snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, choke, he's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity. Siamo arrivati alla lettera M del nostro abecedario dedicato agli animali da set, M come mostri. La parola mostro è antinomica, cioè il suo significato non rimanda necessariamente a un'accezione negativa, semmai rimanda a qualcosa di prodigioso, eccezionale, che oltrepassa i limiti della normalità. Insomma, mostro connota un fenomeno più che una morale. Gli animali cinematografici in questo senso possono essere percepiti come mostri, ovvero esseri al di là del bene e del male. noi spettatori guardiamo i mostri, esistenze veramente immaginarie che la rivoluzione industriale ha definitivamente delegato ai moderni dispositivi riprovisivi, perché si riflettono in qualche modo l'inquietudine del genere umano nei confronti del progresso tecno-normativo che caratterizza le società moderne in cui i ritmi della fabbrica, la divisione atomizzata del lavoro e, last but not least, lo spettacolo della morte costituivano la struttura portante della governamentalità capitalista. Spettacolo in snuff a cui si poteva assistere davanti a uno schermo cinematografico, come nel caso dell'elefantessa Topsy, condannata a morte per elettrocuzione nel 1903 ed eternata per i posteri dalla rudimentale macchina da presa brevettata da Edison, oppure sugli scranni di un'aula universitaria di anatomia di fronte a cadaveri scrupolosamente dissezionati, o addirittura passeggiando disinvoltamente su delle passerelle appositamente sistemate lungo i percorsi obbligati che conducevano mucche, maiali e pecore alla macellazione nei grandi mattatoi di Chicago di inizio Novecento. Per cui il nostro sguardo sul mostro pencola sempre tra il senso di repulsione il sentimento di commiserazione. Un caso emblematico a tale proposito sembra essere quello che riguarda l'ultimo incredibile film di Yorgos Lanthimos, Poor Things, tradotto dalla distribuzione italiana con l'evocativo titolo di Povere creature, ma che a ben pensarci poteva essere tranquillamente reso letteralmente come povere cose, cioè come sinonimo della resa prodotta dagli aberranti esperimenti che dalla fine dell'Ottocento fino agli inizi del Novecento caratterizzeranno la logica sottesa al positivismo scientista. Sebbene al centro di ogni film del regista greco ci siano sempre dei corpi, corpi intesi come carne e sangue, corpi con organi che hanno il potere di condizionare addirittura la mente, i processi cognitivi, in Poor Things questa poetica della carne viene quasi dissimulata dai molteplici referenti storici e politici che scandiscono la sua nuova favola per adulti. Senza entrare nel merito di questa prodigiosa macchina celibe che il film rappresenta, il senso del film probabilmente è proprio quello di mettere in relazione l'illogicità della sperimentazione scientifica caratterizzata da un godimento fine a se stesso, tanto per citare Deleuze, e da una sua certa anomia sociale, quella macchina corpo improduttiva, mi limito a sottolineare, come i cinque animali, in questo caso gli ibridi mostruosi messi insieme dalla sapienza chirurgica del Mad Doctor, interpretato da William Dafoe, il cui fisico è stato a sua volta orribilmente deturpato dagli esperimenti del padre, il cui scopo appunto era quello di mostrare l'indimostrabile, giocano un ruolo centrale all'interno di questo apologo, il cui obiettivo sembra quello di fare luce una volta per tutta sulla dimensione romantica della scienza moderna. La paradossalità del positivismo scientifico sta proprio nell'uso del corpo sperimentale dell'animale e sottolineo come non c'è alcuna differenza tra animale umano e altro animale in questo senso, e qui ancora una volta c'è la dimostrazione che le divisioni di specie sono categorie del tutto inesistenti, sono dei surrogati di realtà, appunto dicevo, del corpo sperimentale dell'animale come oggetto di produzione di verità iscritta semplicemente nella sua esibizione biologica. Ed è proprio il cinema di cui, per esempio, a differenza di un altro capolavoro tratto da un romanzo fondativo della modernità come Dracula, Dracula di Coppola, non si avverte la sua esplicita presenza, che però continua a marcare la pellicola di Lanthimos con i suoi continui passaggi, per esempio dal colore al bianco e nero, oppure con l'uso ossessivo di lenti deformanti e anamorfiche, oppure addirittura con le continue e sapienti citazioni dell'horror melodrammatico dei Frankenstein cinematografici che si sono succeduti dal prototipo firmato da Wall fino alla parodia di Mel Brooks. Il cinema, infatti, fin dagli esperimenti di Muybridge sul movimento animale, è la mostrazione, per citare Nicole Shugi nel suo fondamentale saggio Capitale Animale, del corpo sperimentale come soggetto, oggetto su cui fondare produzione di merce materiale e immateriale e riproduzione di immaginario collettivo. Insomma, nonostante il film metta in relazione questioni dirimenti, come l'oscuro oggetto del desiderio rappresentato dal corpo della donna, qui performato da un Emma Stone in stato di grazia, Emancipazione femminile e Lotta di classe, il finale ci sorprende con la messa in scena di un Eden in cui possono convivere utopisticamente animali umani, resi grazie alla computer grafica e alla tecnologia digitale, letteralmente, umani, animali, mondi lontani, quinte teatrali, corpi sessuati e non sessuati, esistenze non binarie, in altre parole, mostri. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm off the deep end. Maggio ha parlato di mostri e noi abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, autore fra gli altri del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di proporci una ricetta mostruosa. Sentiamo che cosa si è inventato. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Al re dei mostri, su pellicola, è dedicata la ricetta di oggi. Icona cinematografica che dal 1933 ci racconta quanto spesso i veri mostri sono quelli che puntano il dito o il fucile. Gli ingredienti per 4 persone per La montagna di Kong, banana pudding con salsa di cioccolato al cocco, sono 2 banane mature, 100 ml di latte di soia, 100 g di cioccolato fondente, 100 ml di crema di cocco, 80 ml di latte di cocco, 40 g di amido di mais, cannella in polvere. Sbucciate le banane e tagliatele a pezzetti. Versate il latte di soia e la crema di cocco nel bicchiere di un frullatore e unite la banana. Frullate il tutto, aggiungete l'amido di mais e la cannella in polvere, quindi versate in una casseruola mescolando con una frusta e portate ad ebollizione. Quando il composto inizierà a bollire e addensarsi, togliete dal fuoco e versate in stampini in monoporzione e lasciate raffreddare. Nel frattempo portate ad ebollizione il latte di cocco e aggiungete il cioccolato fondente tritato. Fate ritirare qualche minuto a fuoco lento, quindi spengete la fiamma e lasciate raffreddare. Quando il pudding sarà ben freddo e compatto, sformate e glassate con la salsa al cioccolato. Chiudiamo con un intervento dei Troglodita Tribe, alias Lella e Fabio, scrittori, osservatori, artisti, amici dell'antispecismo, autori di innumerevoli opere, piccole e grandi, sempre molto originali, dedicato al vasto, sorprendente mondo della vita animale, colta nei suoi aspetti più affascinanti e meno noti. Da qualche tempo i Troglodita Tribe stanno dedicando una particolare attenzione al mondo dei cani, con uno sguardo del tutto originale. Stavolta ci raccontano il loro più recente contributo. L'ultimo libro di Troglodita Tribe si intitola E il cane incontrò il quartiere, dal sud una nuova idea di convivenza. Si tratta di un libro Pop Edizioni che si trova sul sito di Pop Edizioni e nelle librerie indipendenti. Per scelta dell'editore non troverete questo libro né su Amazon né su altri store online della grande distribuzione. I Troglodita Tribe sono gli stessi autori di È tempo di mordere, stessa casa editrice, quindi Pop Edizioni, e naturalmente Cani e catene, un libro che ha una bellissima prefazione di Lorenzo Guadagnucci e che vale la pena di essere ricordato. Il cane incontrò il quartiere, dal sud una nuova idea di convivenza e il nostro nuovo libro, anche se in realtà più che libro ci piace definirlo come una zampata alla classica idea di cane pet, di cane il cui scopo è solo quello di tenerci compagnia. Un'idea di cane che in definitiva ci ha portati a trasformarlo in oggetto di proprietà, in merce che si può scegliere, comprare e rottamare nei canili quando non serve più, quando non piace più. Quest'idea di cane Fefe, ovvero felice e fedele, così lo definiamo nel nostro libro, è tutta occidentale e, per quanto possa sembrare strano, ha origini piuttosto recenti. Durante gli studi e la ricerca che hanno preceduto questo libro è stato molto sorprendente anche per noi scoprire tutti i particolari su come in realtà quest'idea di cane nasca proprio per una questione di marketing, una questione legata alle necessità della nascente industria del pet food. Solo in seguito sarà poi cementata anche dalla letteratura e dal cinema fino ad arrivare ai giorni nostri per convincerci definitivamente di quanto un cane senza un padrone debba essere sempre e comunque catturato e rinchiuso. Quella del cane di quartiere invece è un concetto fortemente destabilizzante proprio rispetto alla mitica accoppiata cane-padrone che, come ci rivela la parola stessa, condanna colui che definiamo il nostro migliore amico a rango di servitore, perché ovviamente se c'è un padrone deve anche esserci un individuo che non ha altra scelta se non quella di obbedire. Il cane di quartiere è quindi una rivoluzionaria pratica legislativa partita dal basso, dal sud Italia, una pratica che ribalta un'idea di cane ormai diffusa e stratificata nel nostro immaginario e che ha spinto inesorabilmente, e purtroppo spinge ancora oggi, ad utilizzare strategie ciniche e ingiuste come quelle dei canili, delle catene e delle deportazioni. Perché il cane di quartiere è un cane che non ha un padrone, un cane che viene adottato da una comunità, un cane che vive libero sul territorio, che però viene nutrito e monitorato da volontari riconosciuti da regolamenti regionali. Il libro descrive le origini, il contesto e le caratteristiche di questa diversa sensibilità che considera finalmente il cane come un membro della comunità. Un individuo che crea relazioni, che partecipa agli eventi pubblici diventando un vero e proprio collante sociale, promuovendo rapporti basati sulla cura, stimolando pensieri trasversali sulla libertà, sulla diversità e sulla condivisione degli spazi. Si tratta di una pratica dal forte impatto sociale che si riferisce a un immaginario molto più antico ma ancora vivo e vegeto, quello relativo al patto di mutuo aiuto che abbiamo stretto anticamente con i cani. E infatti la cittadinanza è molto coinvolta quando entra in confidenza con i cani del proprio quartiere, tanto che molto spesso quando muoiono si sente la necessità di dedicare loro una targa, un murales o un monumento che li ricordi. Non è un caso che intorno al cane di quartiere si sia aperto un acceso dibattito che tocca diverse sensibilità, perché di fatto, e qui bisogna prestare veramente attenzione, si tratta della prima forma ufficializzata di convivenza tra noi e un'altra specie libera, inserita però nelle comunità e partecipe della nostra vita quotidiana. Una specie, quella dei cani, a cui finalmente viene riconosciuto il diritto di cittadinanza, il diritto a una vita libera e quindi il diritto a prendere decisioni, a scegliere come muoversi e con chi stringere relazioni. Si tratta di uno spiraglio antispecista che è solo all'inizio, che ha bisogno però di essere conosciuto e sostenuto soprattutto da tutte quelle persone che sentono l'importanza di tornare a considerare i cani per quello che sono, i meravigliosi compagni della nostra evoluzione. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.